Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Bentornati, benvenuti, Luca Tremolato al microfono. Oggi proviamo a fare un'operazione di zoom. Conosciamo tutti la lotta alla pirateria, conosciamo tutti gli strumenti con cui viene praticata. Oggi proviamo ad andare a capire bene che cosa sta succedendo in Italia relativamente ai filtri applicati alla rete. Siamo in collegamento con Alessandro Longo, buongiorno. Buongiorno Luca. Per cui faremo un vero zoom, diventeremo un po' tecnici, ma crediamo che capire bene questi temi permetta un po' a tutti di capire anche come affrontare la guerra ai pirati, e per pirati intendiamo coloro che violano il diritto di proprietà. Ma ora le news. Prima cellula artificiale ottenuta in laboratorio. A progettarla è stato un gruppo di ricercatori guidato dal biologo Craig Venter. All'orizzonte c'è la possibilità di costruire batteri per affrontare le emergenze del pianeta. Il risultato apre la strada alla produzione di biocarburanti a partire dai batteri. 10 anni fa, Craig Venter ha partecipato alla mappatura del genoma umano. Poi è stato il primo a costruire un DNA artificiale e adesso ha programmato una cellula con un codice genetico sintetico. Una biblioteca senza carta. L'Università di Stanford prepara scaffali e libri accessibili unicamente in formato digitale. Le prime facoltà a sperimentare il passaggio allo schermo elettronico saranno fisica e ingegneria. L'obiettivo è di facilitare la ricerca e l'innovazione con un collegamento diretto alla rete internet. E continua la corsa alla digitalizzazione del sapere. È appena arrivata sul web la più grande collezione di libri dedicata alla vita marina, custodita nello Scripps Institute. Passiamo all'astronomia. Il Giappone ha inviato una sonda diretta verso Venere. Atterrerà sul pianeta blu a dicembre. Lo scopo della missione è di analizzare i fenomeni meteorologici e l'attività vulcanica. La temperatura superficiale di Venere raggiunge 460 gradi e la pressione è 90 volte maggiore rispetto alla Terra. Rieccoci in studio dopo le notizie della giornata. Allora, Alessandro Longo, in questi giorni stanno succedendo un po' di cose. Noi abbiamo preparato una scheda che racconta un po', insomma, l'ambaradam che sta colpendo molti siti di streaming, e poi spiegheremo bene di che cosa si tratta e come le autorità e la Guardia di Finanza stanno reagendo. Sentiamo la scheda di Alessandro Longo. L'industria del copyright ha avviato una guerra totale contro i siti che offrono spettacoli gratis, ma pirata, in streaming. Film, partite di calcio, concerti, anche in diretta. In pochi giorni la Guardia di Finanza ha sequestrato molti siti. CalcioLink, che offriva tutto il calcio in diretta gratis. Linkstreaming.com, il cui gestore annuncia sul proprio blog che non si arrenderà, anche a costo di finire in prigione. Tra le ultime vittime ci sono anche Calcion e Channel TV, entrambe su piattaforme altervista.org. Succede che i detentori di copyright scoprono l'ennesimo sito pirata, lo segnalano alle autorità, che quindi chiedono ai provider internet italiani di impedire l'accesso dei propri utenti a quel sito. È il cosiddetto filtro o oscuramento. Il primo caso importante ha riguardato un sito straniero, The Pirate Bay. Ma l'aspetto notevole è che adesso le autorità utilizzano il filtro anche per i siti italiani. Prima si sarebbero limitati a sequestrare fisicamente il server. Il filtro è più rapido, ma solleva problemi di carattere giuridico ed etico. Secondo alcuni, è una forma di censura. Allora, nella scheda Alessandro diceva: il filtro è più rapido, ma solleva di problemi di carattere giuridico ed etico. Secondo alcuni è una forma di censura. Noi siamo in collegamento anche con Andrea Monti, avvocato e anche autore di Nova 24, dico bene? Sì, e anche del Sole 24. Del Sole 24, insomma, è sfruttatissimo dal gruppo per la sua competenza. Allora, prima però do la parola ad Alessandro, che ci fa un pochino di scenario e di quadro. In questo momento mi sembra che stiamo assistendo a una raffica di sequestri, sì? Sì, un crescendo, soprattutto in questo caso concentrato sui siti che offrono streaming, mentre prima c'è stata una fase in cui c'erano siti che offrivano file in qualche forma e che venivano quindi sequestrati. Adesso l'ultima moda, possiamo dire così, sono siti che ti permettono di vedere le cose un po' tipo YouTube, cioè ti colleghi e vedi video che sul tuo computer tramite internet. E queste sono le ultime vittime, perché offrono concerti, calcio, anche tutto pirata, ovviamente tutto, ecco, illegale. Spieghiamo bene questo passaggio, cioè si è passati, o quantomeno qualcuno dice che si sta passando, da una fase in cui la pirateria era: io mi collego attraverso determinati reti peer-to-peer e scarico un file violando i diritti di proprietà intellettuale, poi ho questo file all'interno del computer, che può essere musica, un film o qualsiasi altro contenuto, a una situazione in cui, accedendo a internet in streaming, cioè in trasmissione in diretta, possiamo dire, io posso usufruire del contenuto. Dico bene? Sì, beh, un dato di fatto, lo confermano tutte le analisi, tutti gli studi, è che il peer-to-peer il traffico peer-to-peer sta diventando meno rilevante in percentuale sul traffico mondiale. Questo vuol dire che altri tipi di traffico stanno diventando più rilevanti in proporzione, e in particolare è il caso del video streaming, che trasporta di tutto, chiaramente, cose legali e cose meno legali. Quindi questa è la nuova tendenza, sicuramente. Quindi abbiamo visto che le contromosse quali sono? Sono quelle di applicare dei filtri, però sulla potabilità di questi strumenti, insomma, abbiamo chiamato Andrea Monti. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, il discorso dei filtri va impostato in questi termini. Innanzitutto non è un tema nuovo. Fin dai primi anni 90, quando si pose il problema della tutela dei minori, già a livello di Unione Europea si cominciò a parlare di filtri per tutelare le parti deboli. Vennero proposti degli standard mai realmente poi implementati a livello globale. C'è da dire questo da un punto di vista tecnico e giuridico. Il filtro di per sé non funziona, o meglio, funziona ad una sola condizione, come ha dimostrato l'esperienza del Centro Nazionale contro la pedopornografia, e cioè i filtri funzionano soltanto se l'utente finale è disposto a utilizzarli. Quindi impostare filtri lato operatore è semplicemente inefficace. Questo dal punto di vista tecnico. Dal punto di vista giuridico, il problema della imposizione di un filtro lato operatore sta nel fatto che, se escludiamo appunto la pedopornografia e il gambling online, non c'è una legge che consenta l'utilizzo di uno strumento di questo genere, e tutto sommato è anche opportuno che non ci sia, perché come ho detto è un rimedio, se imposto soltanto lato operatore, del tutto inefficiente. Che cosa sta succedendo da un punto di vista pratico? A partire dal caso dei Pirate Bay si è verificato una specie di strappo di interpretazione giuridica che ha esteso il concetto di sequestro preventivo anche al punto di ricomprendere l'ordine di installazione di filtri lato operatore. La giurisprudenza si è immediatamente incanalata in questo solco aperto dalla sentenza della Corte di Cassazione, che però mi sembra più una sentenza diretta a mettere, come si dice, una pezza al colore su un problema che si dovrebbe risolvere in altro modo, che non una sentenza che dia un principio di diritto effettivamente condivisibile. Quindi vediamo se ho capito: se escludiamo la pedopornografia e se escludiamo anche il gambling online, ovvero il gioco d'azzardo, un operatore, per cui un internet provider, può insomma chiedere che non gli venga applicato il filtro? Beh, se c'è un ordine del magistrato, di base l'ordine del magistrato si esegue, poi ci sono le sedi competenti per eventualmente sindacare il contenuto e la forma di questa richiesta, però non vorrei entrare troppo nelle complessità del legalese. No, certo. La sostanza dei fatti è che la partita oggi si sta giocando fra l'equiparazione fra sequestro, che normalmente vuol dire, è intuitivo, prendere qualcosa e sottrarla alla disponibilità di un certo soggetto, e filtraggio, che invece significa un'altra cosa, cioè intervenire sul traffico di rete e impedire l'accesso a una risorsa. Sarebbe come dire: voglio sequestrare un appartamento, non so, dove si spaccia droga, invece di mettere i sigilli a quell'appartamento, blocco tutte le strade che consentono di arrivare al palazzo in cui si trova questo appartamento. Fuori di metafora, il palazzo è il data center che ospita il server, e l'appartamento incriminato è il singolo computer o la singola porzione di spazio disco che ospita i contenuti illeciti. Il problema serio è che sia per la grossa quantità di carico penale che c'è sui tribunali, sia per tutta una serie di problemi operativi legati a diversità di competenze dei singoli corpi di polizia che intervengono, anche dal punto di vista tecnico, è molto più comodo intervenire sugli operatori che andarsela a prendere con chi effettivamente viola la legge. E quindi si sta facendo tutta questa operazione di equiparazione fra sequestro e filtraggio semplicemente come scorciatoia giudiziaria. Questa è la mia opinione, che però non tutela effettivamente i diritti, passatemi il gioco di parole, dei titolari dei diritti, perché come abbiamo visto sono tutte operazioni che a livello globale non portano praticamente nessun risultato, ma vanno a pregiudicare invece i diritti degli utenti. Come l'industria del copyright, come coloro che gli editori, insomma, i discografici stanno dando guerra ai siti di pirateria, stiamo entrando un po' sul tecnico, ma giusto un pelo, siamo in collegamento con Alessandro Longo e con l'avvocato Andrea Monti, che ci ha spiegato, i limiti dei filtri. E io volevo capire con Alessandro Longo anche qual è la voce degli internet provider, cioè come si muovono, cioè qual è la loro opinione in merito. La voce dell'internet provider è stata espressa molto chiaramente in tantissime occasioni da AIP, l'associazione dei principali provider italiani, possiamo riassumere in un obbedisco malvolentieri, perché certo, chiaramente se l'autorità giudiziaria dice dovete filtrare questo IP corrispondente a un sito, no, denunciato per pirateria, allora loro chiaramente lo fanno, non possono opporsi, però dicono anche due cose: uno, non serve a molto, perché gli utenti che davvero vogliono accedere a quel sito trovano i modi per aggirare i filtri, come abbiamo detto, e due, secondo noi questa cosa è una forma di censura, perché io sto mettendo in moto un blocco dell'accesso degli utenti a internet, a parte di internet, e questo ha delle conseguenze. Ecco Alessandro, tu hai preparato appunto una scheda che ci spiega un po' come si stanno aggirando i filtri, perché se abbiamo capito quali sono le perplessità e i problemi sul fronte legale, sul fronte tecnologico scopriamo che insomma si possono aggirare. Allora sentiamo la scheda che hai realizzato. Le tecniche per oscurare i siti web si stanno affinando, ma allo stesso modo diventano più intelligenti i modi per aggirare i filtri. Adesso i provider impediscono l'accesso a un sito bloccando l'indirizzo IP corrispondente. Configurano i propri router in modo da evitare tutte le richieste che arrivano dagli utenti agli indirizzi IP banditi. Primo problema: a uno stesso indirizzo IP a volte fa capo non solo il sito accusato di pirateria, ma anche altri contenuti che non c'entrano niente e che pure vengono così oscurati. Secondo problema: il passaparola tra gli utenti ci ha messo poco per trovare i modi per accedere comunque a questi siti. L'ultimo stratagemma è usare sui siti oscurati lo strumento di traduzione Google Translate. Facendo sponda attraverso Google, così riescano a saltare i filtri. Ci si può chiedere quindi se i filtri sono davvero efficaci contro la pirateria o se gli svantaggi superano i vantaggi. Allora, tu concludi la scheda dicendo, insomma, ci si può chiedere se i filtri sono davvero efficaci contro la pirateria o se gli svantaggi superano i vantaggi. Questa domanda la giriamo anche ad Andrea Monti, nel senso, nel momento in cui questo tipo di soluzioni vengono aggirate da un punto di vista tecnologico, pare evidente che insomma la strada tecnologica finora, allo stato attuale, non è in grado di risolvere, non dico di risolverlo, però di affrontare il tema. Sicuramente questo tipo di tecnologia si è dimostrata, voglio dire, quella del filtraggio, si è dimostrata fondamentalmente inutile ed inefficiente, e al contrario crea problemi seri di compatibilità economica di un modello di business nel panorama della politica industriale italiana. In altri termini, continuando con questi atteggiamenti del tutto inutili dal punto di vista concreto a tutelare le giuste ragioni dei titolari dei diritti d'autore, si rischia soltanto che le grandi aziende statunitensi o comunque internazionali scapperanno dall'Italia o magari non ci verranno proprio, e il settore delle telecomunicazioni, che è un comparto strategico, potrebbe realmente soffrire dei danni irreparabili, con perdita di posti di lavoro e tutto quello che questo implica. Non è uno scenario catastrofistico, ma è quello che è stato ventilato, per esempio, all'indomani della questione della cancellazione del gruppo su Facebook dei soggetti che inneggiavano al lanciatore di statuette, certo, milanese. Quindi il caso problema, Berlusconi. Sì, il problema rimane sempre lì: non si può sostituire con la tecnologia l'applicazione della legge, e soprattutto se poi per ragioni storiche la legge in Italia è di difficile applicazione in tempi rapidi, allora forse il problema non è filtrare o non filtrare determinati contenuti, ma far sì che le indagini penali importanti vadano più in fretta. Ecco, questo però sposterebbe il discorso, certo, in tutt'altro campo. Tecnicamente non c'è nessuna soluzione per questo problema, sia dello streaming sia del peer-to-peer, perché in realtà quello che sta succedendo è che questi strumenti servono per applicare il famoso detto punirne uno per cercare, certo, di educarne 100.000. Ecco, noi abbiamo ancora un minuto, però è chiaro che l'industria dei contenuti non può rassegnarsi, Alessandro, e non è neanche corretto, insomma, che si rassegni. Infatti la premessa è che nessuno sta sostenendo forme di, certo, proprio proletario di proprietà intellettuale altrui e via discorrendo. Questo no, certo, però mi sembra di capire che siamo ancora un po' lontani, ecco. Secondo lei, Monti, la soluzione sarà giuridica, ma giuridica a livello non nazionale e internazionale, o si troveranno un qualche escamotage tecnologico? Sicuramente si continuerà a cercare una qualche forma di tecnologia che consenta una tutela efficace dei diritti d'autore. La mia opinione è che in realtà il problema si risolverà quando cambierà il modello di business che sta alla base della distribuzione. Che è quello che penso anch'io. Alessandro Longo, anche a te la stessa domanda. Sì, sicuramente questa è una strada che piace molto, i detentori copyright ancora ci credono, ecco, infatti fanno sempre comunicati molto entusiasti quando dicono abbiamo filtrato un altro sito, eccetera, eccetera. Quindi continueranno così, cercheranno di imporre strumenti sempre più avanzati ai provider, fino a quando non si renderanno forse conto che non è possibile, allora cercheranno altre vie giuridiche, evidentemente. Allora, non cercheremo altre vie giuridiche, però insomma poniamo i termini del dibattito, della questione. Il nostro tempo è esaurito. Ringrazio l'avvocato Andrea Monti, ringrazio il giornalista Alessandro Longo. L'appuntamento è per Nova Lab alle 16:30. Arrivederci. Nova Lab 24. Nova Lab 24.